Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Per combattere la deflazione e provare a immettere liquidità direttamente nelle tasche dei cittadini, vi sarebbe una strada molto controversa e sulla quale i pareri degli esperti divergono. Quella del cosiddetto helicopter money, lanciare banconote dall'elicottero, una metafora che richiama la celebre dichiarazione di Milton Friedman del 1969, secondo cui esiste sempre un modo per stimolare l'economia e arginare la deflazione, lanciare denaro dagli elicotteri. Una metafora ripresa dall'ex numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, nel 2002, in cui l'allora governatore della Banca Centrale Americana suggerì alla Banca Centrale Giapponese, alle prese con una spirale deflazionistica da cui il paese non è ancora uscito, di stampare denaro per finanziare il taglio delle tasse. Sarebbe sostanzialmente equivalente alla famosa metafora di Friedman del denaro lanciato da un elicottero, osservò. Una provocazione, ma fino a un certo punto. L'opera di Milton Friedman, uno dei più importanti economisti del Novecento, spazia dal versante metodologico al riesame della funzione del consumo, che egli suggerì di collegare a una prospettiva di reddito più ampia di quella annuale. A Friedman si devono imponenti studi di storia monetaria, A Monetary History of the United States, accanto alla riformulazione della teoria quantitativa del 1969. Si ricollega principalmente ai suoi scritti monetari e alle relative controversie l'indirizzo cosiddetto monetarista, che attribuisce particolare importanza al controllo dell'offerta di moneta non soltanto come argine dei processi inflazionistici, ma anche per assicurare un quadro di stabilità che favorirebbe lo sviluppo economico più efficacemente di ogni altra forma di intervento. In questo quadro, egli auspicò un sistema di tassi di cambio flessibili. Sul piano della politica economica, fu l'esponente più vigoroso di concezioni neoliberiste, più volte riprese dalla teoria economica nei decenni successivi. Nel 1976 gli venne attribuito il premio Nobel per l'economia. L'ostacolo che si frappone alla possibilità, peraltro per ora solo teorica, che per combattere la deflazione si possa distribuire denaro direttamente ai cittadini, senza passare, per capirci, per il canale bancario, è nello statuto della banca centrale disegnato per prevenire l'inflazione e contenerla entro il 2% e non è per combattere il rischio di deflazione. È simile alla linea Maginot costruita per proteggere la Francia da attacchi diretti della Germania, ma incapace di affrontare possibili attacchi attraverso il Belgio, ha sostenuto dalle colonne del Sole 24 Ore l'economista Luigi Zingales. Di questi temi parliamo questa sera con il professor Guido Tabellini, docente di economia alla Bocconi di Milano, di cui è stato rettore dal 2008 al 2012. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci aiuti un po' a orientarci in questa suggestiva tesi che lei poi ha ripreso peraltro in alcuni importanti editoriali scritti proprio sul Sole 24 Ore del cosiddetto helicopter money. Ma diciamo l'idea centrale è molto semplice. Quando i tassi di interesse sono arrivati a zero, la politica monetaria diventa difficile da usare, come vediamo, e quindi occorre accompagnare il sostegno alla domanda aggregata con la politica fiscale, oltre che con la politica monetaria. Ma la politica fiscale, come ben sappiamo in Italia, ha l'inconveniente che se aumentiamo il disavanzo sale anche il debito pubblico. E allora viene naturale in queste circostanze pensare al coordinamento tra politica monetaria e fiscale come un modo per sostenere la domanda senza far salire il debito pubblico. E questo ci porta, come lei ha ricordato nella lettura iniziale, all'idea di Milton Friedman della moneta che cade dall'elicottero, cioè la banca centrale acquista il debito pubblico, come di fatto sta accadendo sul mercato secondario adesso con quantitative easing, sì. ma questi soldi vengono usati dai governi anche per tagli di imposte o per aumenti di spesa pubblica, cosa che invece oggi nell'area euro non accade perché rimangono vincolati questi paesi dai vincoli sul disavanzo. Ecco, ma appunto l'obiezione che si fa non solo da parte tedesca ma anche da parte di molti altri osservatori, economisti e esperti, è che non è previsto dallo statuto della BCE che la Banca Centrale Europea possa, come dire, finanziare con moneta il debito, e dovrebbe essere necessaria una modifica dello statuto per questo? Sì, esatto, quindi oggi questo non si può fare perché lo impediscono gli accordi internazionali e non per niente il Presidente Draghi l'ha ritenuta un'ipotesi per ora non esplorabile o comunque non rilevante. Questo però, secondo me, va inteso come un problema di inadeguatezza del fondamenta dell'euro che sono state scritte in un momento in cui il mondo era diverso. Oggi il problema di trovarci con i tassi di interesse a zero non solo è reale, ma è anche probabile che si ripeta in futuro con una frequenza maggiore a quella che avremmo potuto immaginare 10-15 anni fa. Quindi il presupposto economico è che bisognerebbe ragionare sulla possibilità di rivedere questo statuto. Ovviamente questo è un po' fantascienza oggi nelle circostanze attuali, ma se non comincia a entrare nel dibattito intellettuale, nelle idee su cui si ragiona, non accadrà mai. Ed è importante invece discuterne perché prima o poi magari diventerà politicamente possibile per l'Europa rivedere le sue fondamenta istituzionali, e dal punto di vista della necessità economica penso che sia una cosa importante. Sì, il nostro dibattito di questa sera, la nostra riflessione su questo tema della cosiddetta helicopter money ci porta diritto al cuore di una questione centrale per l'Europa, professore, che è quella appunto più volte peraltro ribadita dallo stesso Presidente Draghi, che la politica monetaria da sola non è in grado di far fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo. E perché allora i paesi non fanno quello che dovrebbero? Ma quello che dovrebbero è un po' ambiguo, nel senso che ci sono opinioni diverse su quello che bisognerebbe fare. Sicuramente bisognerebbe rendere le economie più competitive, abbassare il carico fiscale, tagliare la spesa improduttiva, ma oltre a tutte queste cose che bisognerebbe fare, che non è facile fare, bisognerebbe anche sostenere la domanda aggregata con la politica fiscale, e questo è difficile da fare se permangono i vincoli che impediscono il finanziamento monetario dei disavanzi, perché al di là dei vincoli che impongono il rientro dal debito, anche se ci fosse concessa la flessibilità che il governo oggi chiede e quindi potessimo sconfinare di più sul debito, sul disavanzo in Italia, avremmo comunque un problema nell'accumulare molto debito, perché i mercati probabilmente giustamente sarebbero preoccupati della sostenibilità del debito pubblico. Quindi per consentire alla politica fiscale di fare di più, oggi occorre non solo allentare i vincoli istituzionali sulla politica fiscale, ma anche concepire la possibilità che in casi eccezionali la politica monetaria compri il debito per finanziare i governi, non solo per avere effetti di portafoglio come accade oggi. Colgo l'occasione, professor Tabellini, per chiederle un suo punto di vista sullo stato attuale del dibattito sulla governance economica europea. A suo avviso occorrerà ancora molto tempo prima che si riescano a definire delle linee d'azione comune, ad esempio su questo fronte fondamentale della politica fiscale, ma anche su quello della politica degli investimenti? Sono due gambe fondamentali per rilanciare la domanda aggregata, come poc'anzi lei sosteneva. Ma sì, io temo che purtroppo siamo in una situazione in cui manca la fiducia reciproca, torto a ragione che questo sia, su tante cose, non solo in campo economico, ma anche con riferimento al problema dell'immigrazione e al problema della difesa comune, di quello che succede in Medio Oriente. E quindi è difficile immaginare che nell'immediato questi problemi possano essere risolti e l'atteggiamento possa cambiare. nell'immediato, però su un orizzonte un po' più lungo, superate le elezioni francesi e tedesche del 2017, magari superato il referendum inglese, le elezioni spagnole, può darsi che nel giro di uno o due anni l'atteggiamento possa cambiare, perché l'urgenza dei problemi lo impone, e credo che ci sia ampio consenso sul fatto che così è difficile andare avanti. Quindi nell'immediato non vedo delle svolte, però superati questi punti di svolta importanti delle elezioni, chi lo sa. E l'ultima questione, professore, che apparentemente c'entrerebbe poco con quello che ci siamo detti finora, ma che invece è fondamentale, cioè il completamento dell'unione bancaria. Sappiamo che c'è una persistente resistenza, soprattutto da parte tedesca, a garantire l'ultima gamba, vale a dire la garanzia europea sui depositi. Anche in questo caso bisognerà attendere, secondo lei, ancora molto tempo prima di arrivare al completamento dell'unione bancaria? Sì, io credo che se arriviamo dei passi avanti è perché si fa un passo avanti molto lungo verso una maggiore integrazione politica. Senza questa maggiore integrazione politica credo che sia difficile oggi immaginare che i tedeschi cambiano atteggiamento nei confronti del Sud Europa, che cambiano atteggiamento nei confronti della condivisione dei rischi. Per immaginare dei passi avanti su questi fronti che richiedono più condivisione dei rischi, i tedeschi chiedono anche più voce in capitolo sulle politiche nazionali, quindi più integrazione politica. E quindi quello che dobbiamo sperare è che, superate queste soglie del 2016-2017, ci sia più disponibilità a fare un passo avanti molto lungo, cioè verso un'integrazione politica più spinta in un sottoinsieme di paesi. È una scommessa difficile, non so se cambierà l'atteggiamento, ma è questo quello che dobbiamo auspicare, perché non credo che quello che abbiamo fatto finora di piccoli passi graduali sia una strada che sia ancora percorribile. Benissimo, molte grazie professore per essere stato con noi e le auguriamo buona serata. Grazie a voi, buonasera.